11. Completa il testo con il tempo giusto al passato. Ero giovane. Mi piaceva molto viaggiare. Andavo spesso all'estero e i miei genitori non erano molto contenti perché non mi vedevano molto. A me piaceva imparare le lingue. Avevo solo 18 anni quando sono partito per Londra. Sono andato in aereo. È stato il mio primo viaggio senza toccare i piedi per terra. Sinceramente, avevo un po' di paura mentre il portellone dell'aereo si chiudeva. Ma poi tutto è passato e mi sono divertito a guardare l'Italia dall'alto. Era così piccola. Il mare e le montagne sembravano molto vicine. Quando sono arrivato a Londra, era ora di cena. Avevo molta fame. Ma non c'erano ristoranti italiani, o meglio, non ho trovato un ristorante all'italiana. E poi non riuscivo a capire una parola d'inglese.